24 mattino. Simone, per sentire te ho buttato tutto il caffè sul tavolino del salotto. Porca miseria. Un abbraccio, Rita. Credo che il nostro segretario Zingaretti del Partito Democratico dovrebbe pensare bene prima di allearsi ai 5 Stelle, perché si sono dimostrati incapaci di gestire le cose. Sì, ma perché non rendere adottabili questi bambini che si trovano nei campi? Perché la legge è così complessa per avere l'adozione? Ma insomma, io non so se si possa fare questa cosa, mi sembra un po' presto. Intanto, per rispondere invece all'ascoltatore che è... o ascoltatrice, oh ragazzi, firmatevi, ma non è che dovete mettere nome e cognome, non violerò la vostra privacy, dite almeno il nome di battesimo, così so con chi parlo. Comunque, un ascoltatore o un'ascoltatrice che dice, dopo aver ascoltato le storie di questi rifugiati tenuti come schiavi, abbiamo sentito la testimonianza e il racconto di Valentina Furlanetto a Lesbo, niente da dire, dov'è l'accogliente Europa? Finito tutto, passiamo alla rassegna stampa e dimentichiamo che sbarcano per fare la fine dei topi? No, non ce ne dimentichiamo, ed è per questo che abbiamo voluto dare visibilità, e che Radio 24 ha voluto dare visibilità a questa situazione mandando Valentina Furlanetto a Lesbo, appunto. Una situazione terrificante. Se vi siete messi in ascolto solamente adesso, andate poi a recuperarvi il podcast delle 6.30 e vi sentite quello che succede a Lesbo, dove ci sono 21.000 persone in questo momento. E se non aveste sentito i numeri da Valentina Furlanetto, un bagno ogni 100 persone, una doccia ogni 230, metà delle persone che si trovano là sono minorenni, ci sono anche bambini di 7-8 anni, abbiamo sentito la voce dell'UNICEF che ci dice, non si sa poi come finisca, c'è cioè in mezzo di tutto, compreso il traffico di organi. Questo è il quadro. Siamo nel nostro continente, o meglio nell'Unione Europea, ed è la Grecia. E sì, alle vostre voci al 349-238-6666, sms, messaggi su WhatsApp per questa, anche audio, anzi soprattutto audio, per questa seconda parte 24 mattino dedicata come sempre alla rassegna stampa. Che iniziamo dando, come sempre, un'occhiata a come aprono i giornali. Ce ne sono alcuni che si concentrano sulla questione dei due papi. Ratzinger evita lo strappo, è il titolo del Messaggero. Il giallo delle lettere di Ratzinger è il titolo del Quotidiano Nazionale. Vogliono imbavagliare Ratzinger, è il titolo della Verità. Altre questioni, quelle politiche, in primo piano sulla Repubblica, cancellare Salvini, intervista a Del Rio, non ci basta modificare i decreti sicurezza, serve una nuova legge. È prevedibile un nuovo dibattito interno alla maggioranza. La Stampa ci racconta che il governo ha deciso, sarà revoca per Autostrade per l'Italia, la revoca della concessione. Il Manifesto, Il Giornale e si concentrano sulla Libia. Deserto russo è il titolo del Manifesto, sul fatto che Haftar non ha firmato la tregua. E l'avvocato si arrende, niente soldati a Tripoli, è il titolo del Giornale. Libero sceglie il tema della rivolta di immigrati criminali. Da Torino a Caltanissetta, da Gradisca di Sonso a Bari, i condannati per omicidio stupro mettono a ferro e fuoco le strutture nella speranza di non essere rispediti nel loro paese. Un pezzo a firma di Lorenzo Mottola. Accordo in verde è il titolo di Avvenire, sul via libera del Parlamento Europeo al piano da 1.000 miliardi di investimenti per il Green New Deal. Appalti, niente blocco, 40 miliardi di gare in atto, ci racconta il Sole 24 Ore, la temuta paralisi per le continue revisioni delle regole non c'è stata, anche qua si parla di Green New Deal, ci arriveremo tra poco. e del taglio del cuneo fiscale, il taglio delle tasse sul lavoro, il doppio binario in arrivo, così scrive il Sole 24 Ore. Il Fatto Quotidiano apre su Bibbiano: ai bambini niente regali, ai genitori tutte le carte dello scandalo. Si sono chiuse le indagini ieri, 107 capi di accusa, prassi di violenze psicologiche sui bimbi in affido, almeno questa appunto è la tesi dell'accusa. C'è anche Corriere della Sera su Ratzinger, il libro è un caso, è il titolo. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, che apre su Lukaku, segna sempre Lukaku. E poi si parla anche dello scambio Spinazzola all'Inter e Politano della Roma, quindi un po' di mercato. Iniziamo come sempre però da qualche altra notizia e inizierei francamente dalla cosa che un po' sta facendo discutere tutti, e l'avete sentita anche in GR24, questa vicenda della sentenza arrivata ieri dalla Corte d'Appello di Torino, che ha riaperto il dibattito sul tema dell'utilizzo del cellulare e la possibile insorgenza di un tumore, confermando una sentenza emessa nel 2017 dal Tribunale di Ivrea, riguarda un dipendente di Telecom Italia, Roberto Romeo. Nel 2010 ha scoperto di essere stato colpito da un tumore benigno ma invalidante, il neurinoma del nervo acustico, racconta il Messaggero in un pezzo di Francesco Malfetano, un cancro che, a detta dei suoi avvocati ma anche della corte torinese, è stato causato dall'uso continuato che l'uomo ha fatto del cellulare per oltre 15 anni. Qual è il tema? Ci racconta il Messaggero nel dettaglio. Nel caso di Brescia, perché già nel 2009 la Corte d'Appello di Brescia aveva dato ragione a un ex dirigente d'azienda affetto dal neurinoma del ganglio di Gasser, che per 12 anni aveva lavorato utilizzando il cellulare per 5-6 ore al giorno, nel caso di Brescia come in quello di Torino, c'è da dirlo, la voce dei magistrati resta quello che è, l'applicazione della legge alla regola e non un'evidenza scientifica. Per il caso Romeo il Tribunale ha valutato le prove a disposizione, facendo riferimento a una consulenza tecnica. Però, qual è questa consulenza tecnica? È la consulenza tecnica di Angelo Levis, ordinario di mutagenesi ambientale all'Università di Padova, che da vicepresidente della... è curioso il nome dell'associazione, Apple, sarebbe Apple però, Associazione per la Prevenzione e la Lotta all'Elettrosmog, è tra i principali sostenitori italiani della correlazione tra utilizzo dei telefoni cellulari e insorgenza dei tumori. Da precisare ovviamente che questa vicenda ha a che fare con l'utilizzo di una vecchia tecnologia, il LETAX, che emette molte più radiazioni. Dall'altra parte abbiamo su Corriere della Sera, pagina 7, Margherita De Bacche, che intervista Roberto Moccaldi, che è responsabile medicina del lavoro e incarichi professionali del CNR, il quale dice: no, non c'è evidenza scientifica consolidata che questo possa accadere. I dati disponibili sulla base delle ricerche degli ultimi 30 anni suggeriscono che l'uso dei telefoni cellulari non sia associato all'aumento del rischio dei tumori. Lo ha ribadito solo pochi mesi fa l'Istituto Superiore di Sanità in una meta-analisi. Cos'è la meta-analisi? È un'analisi che tiene conto di tutti gli studi precedenti, la quale ci dice, in questa meta-analisi, gli studi pubblicati tra il 99 e il 2017, e dice appunto che non ci sono rischi. I miei autorevoli colleghi affermano che le radiofrequenze non possono causare neoplasie nelle zone più esposte del corpo durante le chiamate vocali. Allora, come mai, chiede Margherita De Bacche a questo esperto del CNR, c'è stata questa sentenza? I consulenti tecnici del tribunale evidentemente hanno fatto riferimento ai pochi studi che dimostrano l'esistenza di rischi legati all'uso dei telefonini. Questi studi costituiscono la nettissima minoranza rispetto a una massa di informazioni che invece smentiscono l'ipotesi di pericolo di salute. E però, tanto basta ovviamente a riaprire il dibattito e presumibilmente aprire ad una serie di altri ricorsi. Resta in primo piano, e se volete un po' tra la politica e la cronaca, la vicenda di Bibbiano. Molti dettagli sul Fatto Quotidiano, che racconta il punto di vista dei magistrati in questo atto di chiusura delle indagini, in una giornata nella quale, tra l'altro, si è stabilito appunto che il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, secondo la Cassazione era infondato l'arresto del sindaco di Bibbiano. In questa giornata arriva la chiusura delle indagini sulla vicenda appunto dei bimbi che si suppone siano stati sottratti illecitamente alle famiglie. dal sistema affidi affari per 200.000 euro, titola il Corriere della Sera, pagina 16, chiusa l'inchiesta per 26. Il racconto, appunto, della magistratura inquirente su questa vicenda è il seguente. La regola tassativa era quella di non consegnare ai figli in affido i regali portati da papà e mamme naturali, poi perizie manomesse, documenti e testimonianze mai inoltrati, relazioni palesemente false. È terminata ieri l'indagine sul caso Bibbiano, racconta Alessandro Fulloni appunto a pagina 16, e i finti abusi segnalati dai servizi sociali della Valdensa nel Reggiano per togliere i minori alle famiglie deboli, assegnandoli a coppie giudicate più adatte. Un business, secondo l'accusa. Ogni ora trascorsa dagli psicoterapeuti con i minori veniva pagata 135 euro a fronte di tariffe medie di 70 per un danno all'erario di 200.000 euro. Ci sono anche un po' di intercettazioni e c'è chi suggerisce che quest'atto di chiusura delle indagini arrivi non a caso in questo momento. Lo fa l'avvocato di una delle principali indagate, la coordinatrice dei servizi sociali della Val della Valle nella quale sono avvenuti i fatti, Federica Aghinolfi. Oliviero Mazza è l'avvocato, dice che sta valutando se sussistano i presupposti per la rimessione del processo nella sede di Reggio Emilia. Non è irrilevante che la fine delle indagini arrivi a pochi giorni dalle elezioni in Emilia Romagna, così appunto sul Corriere della Sera l'avvocato di Federica Aghinolfi. Vedremo come andranno le cose sull'inchiesta di Bibbiano e vedremo come andranno le cose per questi 120 richiedenti asilo che improvvisamente si sono trovati senza nulla dopo un programma di inserimento che pare avesse funzionato bene. Siamo a pagina 4 del quotidiano La Repubblica ed il racconto prende le mosse dagli effetti dei decreti sicurezza, i famosi decreti sicurezza, dei quali Graziano Del Rio oggi sullo stesso quotidiano La Repubblica chiede di fatto l'abolizione, la modifica radicale, cioè la cancellazione e la riscrittura di nuove norme sull'immigrazione, un tema che non smetterà di aprire il dibattito all'interno della maggioranza. Chi sono questi 120? Lo racconta Alessandra Ziniti appunto a pagina 4 del quotidiano La Repubblica. 3 anni di vita, di serenità, di crescita, di integrazione, finalmente una prospettiva di futuro, cancellati con un colpo di spugna dal decreto sicurezza. Niente permesso di soggiorno, niente lavoro, niente casa, con l'unica prospettiva di diventare uno dei 600.000 invisibili e di bivaccare tra panchine e stazioni. Qual è la vicenda? È finita così per buona parte dei 120 richiedenti asilo e titolari di permessi provvisori di protezione umanitaria che avevano creduto che quel contratto regolare, uno stipendio da 1.000 a 1.200 euro per un lavoro da magazziniere o autista o camionista presso una delle più grandi aziende di logistica italiana, fosse finalmente l'inizio della loro nuova vita. È finita così per la Number One Logistic di Parma, che dopo aver investito per 3 anni sulla formazione di questi migranti, si è vista costretta a licenziarli e si è ritrovata a corto di personale, visto che, racconta la stessa azienda, di italiani disposti a fare quei lavori non se ne trovano. Un progetto di integrazione finito male, racconta, scrive almeno Alessandra Ziniti, a causa dei decreti sicurezza e dell'intervento che hanno fatto sul tema della protezione umanitaria. Roma. Anche oggi non circolano le Euro 6, probabilmente non circoleranno nemmeno domani, che vuol dire che non circola nessun diesel, almeno teoricamente. Poi i nostri ascoltatori ci hanno mandato degli WhatsApp nei quali ci dicono: guardate, il traffico è uguale a prima, quindi il rispetto di questa norma presumibilmente non è stato un granché, e forse, scrive il Messaggero, addirittura fino a lunedì. E Messaggero che ci presenta però un pezzo che credo che sia di Camilla Mozzetti, perché è solamente siglato a pagina 7. Il tema qual è? È che l'inquinamento non si incrementa solamente per le auto. Roghi tossici e autobus vecchi, così le centraline vanno in tilt. Se prendiamo la zona della Tiburtina, racconta Mozzetti, dove i livelli degli agenti inquinanti sono tra i più alti, bisogna tenere in considerazione ad esempio che in questo territorio i tanti insediamenti abusivi bruciano illegalmente, anche dietro pagamento, tonnellate di rifiuti. Cosa si fa invece? Si limita solo la circolazione veicolare privata, perché è lo strumento più immediato a disposizione di un'amministrazione comunale, senza che questo tuttavia basti a risolvere il problema, limitandosi invece a ridurre gli effetti negativi. E il tema sono anche gli autobus romani, che sono vecchi, una media di età di 12 anni, e quindi chiaramente sono molto più inquinanti di un Euro 6, però come è naturale in queste situazioni, circolano tranquillamente. Una pausa. Quattro mattino. Damiano da Roma ci scrive: c'è un traffico allucinante, saranno tutte Euro 7. No, non credo proprio che a Roma ci siano delle Euro 7. Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno, come va? Benissimo. Oggi i giornali sono molto vivaci. Molto ricchi. Di ottimo umore. Molto ricchi. Allora, inizierei dai due papi e da tutte le interpretazioni che circolano intorno appunto alla vicenda, no, di questo libro che suppostamente scritto insieme al Cardinal sarà da Ratzinger, e poi Ratzinger ne ha di fatto ritirato la firma. Il tema è quello del celibato dei preti, con interpretazioni varie sui giornali, no? Da Massimo Franco, che dice che non ci sono due papi ma la loro diversità è strumentalizzata, a La Verità, che dice che vogliono ridurre al silenzio il Papa emerito. Beh, io penso che sia un atto clamoroso. Non ci saranno due papi, ma c'è la storia di un Papa costretto, non so bene da chi, alla ritrattazione, perché a pagina 3, per chi è interessato ai dettagli di questo giallo, viene pubblicata con grande evidenza e legittima una lettera di Ratzinger con cui diceva, leggo testualmente: da parte mia il testo può essere pubblicato nella forma da lei prevista. Cioè, non solo erano stati mandate le bozze, ma c'è una lettera autografa del Papa che autorizza la pubblicazione. Oggi ritira la firma dopo che questo libro, come abbiamo ricordato nei giorni scorsi, ha sollevato una tempesta, perché sembra puntare il dito contro Papa Bergoglio, al quale viene imputato che, con la scusa di consentire ai preti dell'Amazzonia di sposarsi, fa entrare dalla finestra quello che dice davanti alla porta, dice no, i preti devono rimanere celibi, però poi in quel modo fa rientrare, secondo me fa bene Papa Bergoglio, però diciamo la verità, sottoporre un anziano, autorevolissimo signore all'umiliante rito della ritrattazione, di ritiro la firma da quel libro, è una cosa che ricorda la Chiesa di altri tempi. Mai si sarebbe dovuti arrivare a sottoporre Ratzinger, una persona per bene, Papa emerito, a un rito così umiliante. Quindi non ci saranno due papi, per carità, sì. Non ci sono due papi, però è come se ci fosse. Sì. Su qualche giornale trovate anche l'idea che questo cardinal sarà un tradizionalista, del quale abbiamo già parlato nei giorni scorsi, possa essere un ipotetico candidato alla successione a Bergoglio da parte dell'ala tradizionalista. Vedremo, insomma, per il momento ci pare che ci sia tempo, anche se ovviamente non si può dire mai. Ci sono, per così dire, due papi anche nel Movimento 5 Stelle, di Battista e Di Maio. Sì, certo, ci sono due papi, perché a Di Battista è stato dato un ruolo, e quindi grande ritorno del nuovo papa. Qui il Ratzinger dovrebbe essere Di Maio, stiamo scherzando, Di Battista dovrebbe essere Bergoglio. Oltretutto Di Battista viene da una lunga esperienza in America Latina, quindi ha qualcosa di Bergoglio, però ripeto, stiamo scherzando su un avvenimento minore, ma che i giornali presentano come sconvolgente per la politica. In realtà i 5 Stelle si dibattono in una crisi da cui non sono ancora usciti. Se vuoi un dettaglio, posso fare un'intromissione: le stesse nomine della RAI ieri sono state qualcosa di dove si è visto i 5 Stelle andare in ordine sparso. Insomma, è stato un momento molto difficile per i 5 Stelle. Ti porterei su i dossier economici. Allora, certamente c'è tutto il dibattito, te lo trovate un po' su tutti i giornali, con varie ipotesi sul tema del cuneo fiscale, taglio del cuneo fiscale, ossia del taglio delle tasse sul lavoro. Vi segnalo su tutti i pezzi di Marco Mobile e di Tucci a pagina 5 del Sole 24 Ore, e un po' su tutti i giornali, e prenderei anche qua dal Sole 24 Ore, in realtà si parla del Green New Deal, ossia il via libera del Parlamento Europeo al piano capitano della commissione per gli investimenti in, in economia verde, no? 7 sì, miliardi. Europa Verde al via con 7,5 miliardi, annuncia Beda Romano a pagina 3 del Sole 24 Ore, transizione energetica, effetto leva e cofinanziamento. Per mettere cofinanziamento significa che noi però dobbiamo metterci una parte di invenzione, finanziamento, e quindi è la solita storia degli aiuti europei che poi non arrivano perché in Italia non si riescono a innescare questi aiuti europei. Comunque, ove mai li innescassimo, Riccardo Barra fa un'intervista, sempre sul Sole 24 Ore, a Larry Fink, che è l'amministratore denegato di BlackRock, che dice che il cambiamento climatico rivoluzionerà la finanza globale. E se vogliamo venire a cose più italiane, Manuela Perrone intervista Gentiloni, commissario europeo, che dice che con queste risorse della Green Economy si potrà aiutare anche l'Ilva. Leggere l'articolo di Manuela Perrone per capire come, cioè attraverso la rivoluzione verde conosceremo una grande fortuna che addirittura risolverà una delle questioni, potrebbe aiutare a risolvere una delle più gravi questioni che più delicate in questo momento, il traffico. Allora, la questione, il capitolo libico, caro direttore, sui giornali ne troviamo un po' di tutte, nel senso che questa decisione di Khalifa Haftar di non firmare l'accordo per il cessate il fuoco a Mosca e comunque l'accettare di essere al vertice di Berlino viene interpretato in molti modi. Alcuni ritengono che sia un modo di prendere tempo e di consultare, per esempio, una parte delle tribù alle quali fa riferimento. Altri dicono in realtà non vuole firmarlo perché vuole marciare su Tripoli e vuole prendersela. Io sarei più favorevole a questa seconda ipotesi, anche se bisogna ricordare che Haftar è fortissimo come personaggio, ormai lo conoscono tutti, ha un carattere, sembra un duce, ma come capacità militare, lo ricordavo l'altro giorno in varie interviste a Edward Luttwak, ne ha pochissime. Da aprile sta alle porte di Tripoli, non riesce a entrare a Tripoli, non si è mai vista una cosa che dura 8 mesi, quindi non è un grande asso militare, però sa tenere benissimo la scena internazionale e ha dato e sa dare delle fregature ai suoi interlocutori. Ha cominciato, si è fatto le ossa con Conte mercoledì scorso quando ha annunciato di venire, poi l'ha tenuto bloccato 3 ore e mezzo provocando l'irritazione di Sarraj, poi ha annunciato che sarebbe andato a Mosca domenica da Putin e lì gli ha dato anche a lui una bella fregatura. Adesso annuncia che andrà alla conferenza di Berlino domenica prossima. Insomma, vediamo, perché per fare una tregua ci vuole che i due contendenti si incontrano e si stringano la mano. Per carità, la tregua non è la pace definitiva, ma Haftar è un grande giocatore. Spesso questi grandi giocatori però, se non hanno una meta precisa, finiscono in un burrone. Stiamo a guardare sta a guardare anche l'Italia, che sta valutando l'ipotesi, nel caso se ci fosse una missione ONU, di inviare dei soldati. Vedremo come andranno le cose da questo lato. Ti vorrei portare però, perché su una questione che sui giornali in realtà non c'è perché so che hai seguito il dibattito di questa notte tra i candidati democratici alle presidenziali americane. Sentiamo un passaggio, Carmelo Loricelli, di Elizabeth Warren, via. About whether or not a woman can be president has been raised, and it's time for us to attack it head on. And I think the best way to talk. E qua Elizabeth Warren è il tema, appunto, delle donne. Certo, insomma, è stato il tema centrale. Abbiamo preso le parole centrali perché Bernie Sanders a un certo punto ha detto: ma io non credo che una donna possa riuscire a farcela fare il Presidente degli Stati Uniti. Ha pizzicato la Warren su una, tra l'altro Bernie Sanders, il candidato estremo, non è un conservatore, è il più radicale della sinistra americana, e lei era preparatissima e ha elencato a tutti i contendenti, tutte le volte che loro sono stati sconfitti in elezioni, dicendo: io non sono mai stata sconfitta, voi sì, è stato un momento, tutta l'America si è appassionata, anche i repubblicani, a questo dibattito, perché è stato un momento di rara spettacolarità. Questa donna determinata, io non so se riuscirà lei a essere la candidata, ma si è difesa in una maniera spettacolare, sì, da leonista, bravissima, un genio. Sai che forse abbiamo anche la voce di Sanders, sentiamola, va. In 2002, when the Congress was debating whether or not we go into a war in Iraq, invade Iraq, I got up on the floor of the House and I said, insomma, qua sul tema della politica estera, difficile che possa farcela, Sanders, che dici, direttore? Mi sembra, dopo questa, cioè, essersi cimentato con la Warren su questo tema, è stata una gaffe da parte sua, perché poteva dire qualsiasi cosa, meno sei brava, però purtroppo sei donna, non ce la farai. Ha scatenato un putiferio, ripeto, vedrete che sui giornali domani mattina, non quelli che comprerete, sì, oggi, troverete ampi resoconti, ma già oggi nelle notizie su internet e televisive di questo molto si parlerà. Poi si parlerà anche di un'altra donna, forse, se mi permetti la conclusione, che è Ségolène Royal, perché Macron è l'ex candidata, la moglie di Hollande, l'ex candidata per il Partito Socialista alle elezioni francesi nel 2007, Macron l'ha licenziata, lei era ambasciatrice ai due poli, adesso non mi chiedete cos'è. Che cosa voglia dire questo esattamente? Polo nord e polo sud. Non è un ruolo fondamentale, ma Macron l'ha licenziata facendolo in uno sgarbo, dicendo che non se ne occupava abbastanza. E lei ha fatto capire, cioè, vabbè, allora, dei rapporti, non si occupava abbastanza dei rapporti diplomatici con i due poli, evidentemente. Ma, insomma, adesso ogni scherzo è ammesso su questa cosa, ma lei dice: mi vendicherò, ed è possibile che torni come candidata del Partito Socialista alle prossime elezioni. Probabilità di vittoria zero, però probabilità di dar fastidio a Macron, che è in una contesa all'ultimo voto con la Le Pen, quelle moltissime, cioè se si presenta una forte candidata socialista, vuol dire che le elezioni sono molto molto in bilico, le elezioni francesi. Ascolta, insomma, ti porto sui tuoi due grandi amori, e inizierei dalla saga dei reali britannici. Qua abbiamo il Canada che ha detto che non vuole sborsare un quattrino per il mantenimento dei due nel caso, appunto, si trasferissero e non avessero fondi dalla casa reale britannica. Non avevo simpatia per Trudeau prima, non avevo particolare simpatia, ma adesso sono addirittura indignato con Trudeau, nel senso che questi reali o non capisce la modernità. I due reali inglesi che si trasferiscono in Canada sono un'occasione di glamour clamorosa, di marketing pazzesca, no, di grande marketing territoriale, certo. Ma certo, ma sono una cosa, è la prima volta che un pezzo di corona si trasferisce definitivamente in Canada, non essendo poi loro canadesi, insomma, una cosa enorme, e invece di fare così lo schizzinoso, credo che sia una mossa per ingraziarsi la parte più popolare del suo elettorato, però così è una cosa che mi lascia basito. In compenso c'è stata la svolta dei Savoia dopo mille anni, da notizie del Corriere della Sera, anche le donne a capo del casato. La decisione di Vittoria Emanuele, in marzo la prima uscita pubblica di Vittoria, erede designata. L'articolo è sul Corriere, come ho detto, di Enrica Roddolo. Quindi grande modernità dei Savoia e brutto gesto di Justin Trudeau. Allora, non abbiamo tempo, caro direttore, per andare, caro Paolo Mieli, su il tuo altro grande amore, ossia le sardine, cioè le cronache delle sardine, non che tu abbia un amore particolare. Il padre della Borgonzoni ha regalato alle sardine il quadri del nonno. Pensa che fortunate le sardine hanno i quadri del nonno del della nonno Borgonzoni. Della Borgonzoni, benissimo, va bene. Chissà dove li metteranno, chi li prenderà e dove li metteranno, chissà chi li prenderà e dove li metteranno. Grazie Paolo Mieli, anche per oggi ci ritroviamo venerdì GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, avremo ospite Pasquale Tridico, il presidente dell'INPS. A dopo.